Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, qua alle 8:20 minuti in punto ci siamo. Eccoci qua, devo dire che l'ascoltatore che ancora non è smaltito su Milan l'effetto delle già concentrati oggi. Sai che oggi se andiamo primi poi Galliani si inventa qualcosa, sospende il campionato e vinciamo il tricolore. Guardate che lo dici come battuta, ma non esclude che ciò possa avvenire. Questo con Galliani non si sa mai. Già, no, soprattutto questa era l'interpretazione, come ovvio. Comunque, caro ascoltatore, è una meraviglia vedere l'effetto che il calcio produce su questi singolari bipedi che sono i maschi italiani. Questo devo ammettere. Ma non c'è notizia, cioè è una rigenerazione, è una dopamina, capite? È così. Vedremo domani come mi troverai. Vabbè, c'è un nuovo picco di depressione in arrivo. No, mi auguro. No, comunque, oggi anche i santi, per così dire, sono in linea con lo stato d'animo del mio autorevolissimo co-conduttore. Tant'è vero che oggi è una santa che è molto venerata dai movimenti alternativi dagli anni 60 in poi, perché è Santa Canna. E Santa Canna è una bretone nel VI secolo, quindi non ridete, non c'entra nulla con Bob Marley, eccetera, eccetera. Però Santa Canna, poi tra gli altri santi di oggi, San Frutto, che è un bel nome, devo dire la verità, San Crispino, Daria, poi il San Miniato di Firenze, che c'era davvero, martire, quindi lo trovate in una famosissima chiesa. E devo dire che tra chi compie gli anni oggi, Claudio Velardi, che è mio amico iperrenziano, ex va bene, spin doctor di D'Alema, esatto, poi che adesso è diventato iperrenziano, Claudio Velardi, Stefania Craxi. E oggi nel 1955 si vendeva in Ohio il primo forno a microonde, costava la bellezza a valore attuale di $1,000. Pensate alla tecnologia, quanti passi avanti. Però 1955, cioè un mila di Dio di tempo fa, a dire la verità. Bene, bene. Allora, cari ascoltatori, vabbè, oggi parleremo un po' di costi della politica. Lo facciamo, i costi dei parlamentari. Sai che c'è oggi questo dibattito molto atteso alla Camera. Pare anche con Beppe Grillo, non si sa se starà dentro, se starà fuori. Che invita Renzi anche a partecipare. Esatto. Perché c'è la proposta del Movimento 5 Stelle sul taglio dell'indennità. Un disegno di legge presentato da sempre, una delle bandiere del movimento. Naturalmente la calendarizzazione è lenta. E c'è la polemica già anticipata sul fatto che ovviamente la calendarizzazione subirà dopo il dibattito di oggi ulteriori rinvii, eccetera, eccetera, per non toccare il tema. Comunque vedremo. Intanto non ti sarà sfuggito su questo tema, a proposito di costi delle istituzioni, l'articolo ennesimo di Gian Antonio Stella sui forestali della Calabria. 21 volte quelli del Veneto. Esatto. 50 milioni ai lavoratori socialmente utili, 180 milioni ai forestali calabresi, con i parlamentari, ovviamente quelli che portano avanti, immagino, legittimamente le istanze dei forestali calabresi che esultano sui loro blog, avanti con tutti i diritti avanti, garantiti. Con i diritti garantiti. E si scopre che se andassero a lavorare non avrebbero i mezzi per farlo. Esatto, quindi, hanno tre gru. Quindi tre bisogna uno di palettine, quelle dei bambini. Noi scherziamo, ridiamo, cari ascoltatori, certo. Però rendetevi conto che il solo fatto che siamo costretti da decenni a scherzare su questi temi, cioè forestale della Calabria, forestale della Sicilia, la Sicilia che dà solo un terzo delle spese di tutti i dipendenti, di tutta la regione e così via, è il segno della nostra resa. Sì, e lì soprattutto non c'è governo che tenga, cioè, qualsiasi governo è una tassa. Cioè noi ridiamo della rapina che ci infliggiamo e lo facciamo col tono rassegnato di chi sa che tutto sommato, ma cosa vuoi cambiare? Ma sì, ecco, questa è la sintesi del perché poi perdiamo punti rispetto agli altri. Poi vi potranno raccontare che è colpa dell'euro, dei tedeschi, ma la colpa è nostra, ci siamo rassegnati. Ma tra l'altro, Oscar, lì Gian Antonio Stella scrive molto bene che i primi danneggiati sono i calabresi, sono gli italiani che pagano, e i calabresi stessi che magari avrebbero bisogno di risorse ma non messe lì. Certo, però il problema è che molte famiglie in Calabria con i forestali campano anche di quello, campano di questa forma di assistenzialismo puro, diciamolo francamente. Negli anni andavano indirizzati verso i pieghi produttivi. E a furia di non farlo, che poi capisci, diventa tutto. E cosa vuoi fare? E ma cosa vuoi toccare? No, è come nei Promessi Sposi, te lo ricordi, Ferrer, che diceva, da una parte diceva sì, poi diceva no. Calma, troncare, sopire. Ecco, l'Italia è eternamente immobile. È questa. Però la colpa della Germania, dice. Ecco, e poi la colpa della come Merkel. Scrive oggi dice oggi Daniel Gross in un'intervista al tedesco. Daniel Gross è come prendersela con l'arbitro, prendersela con l'Europa. E questo tra l'altro mi fa venire in mente. Che ci va a tornare al tema iniziale, sera, no? Sera. Scherzo. I juventini che protestano. No, scusami, sì, è proprio un'ottima metafora. È stato un bel assist di Daniel Gross. No, allora, caro Oscar, qui abbiamo Roberta Lombardi, che è la prima firmataria di questo progetto disegno di legge per decurtare gli stipendi dei parlamentari. Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, lei ironicamente ha detto stavolta davvero basta un sì, cioè basterebbe dire sì e invece come andrà a finire? Così faccia un pronostico, perché i giornali dicono che verrà tutto, come dire, respinto, verrà trovato il modo per non discutere di questa legge. Lei ottimista? Ma guardi, dopo aver sentito per anni nelle varie campagne elettorali, da quella per la segreteria PD di Renzi alle varie campagne elettorali per amministrative politiche europee, a sentir parlare del dimezzamento dei costi della politica, noi dovremmo per forza essere ottimisti se ci limitassimo solo agli annunci televisivi e alle campagne elettorali. In realtà poi abbiamo visto, a parte la fatica a portare in Commissione Affari Costituzionali questa proposta di legge che è di maggio 2014 è arrivata solo a luglio di quest'anno, e poi anche la difficoltà a interloquire con dei soggetti politici che invece di ridursi lo stipendio non hanno nessuna intenzione, l'abbiamo visto proprio perché non hanno minimamente voluto lavorare nel merito del tema. Ma cosa propone esattamente questa legge? Ci spieghi cosa allora, è previsto? Noi proponiamo praticamente di applicare a tutto il Parlamento il trattamento che noi parlamentari del Movimento 5 Stelle ci siamo autoimposti al momento dell'entrata nei palazzi, ovvero il dimezzamento dell'indennità, che sarebbe lo stipendio del parlamentare, da 10.435 euro lordi mese per la Camera e qualche cosa in più per il Senato a 5.000 euro lordi, che si tratta di un netto tra i 2.8-3.000 euro netti, che insomma mi sembra uno stipendio con cui tante famiglie italiane campano dignitosamente, magari anche con figli a carico. E dopodiché manterremmo inalterati gli attuali livelli della diaria, che sono 3.500 euro al mese, e gli attuali livelli delle spese di esercizio mandato, che sono 3.690 euro al mese, ma introduciamo il principio della completa trasparenza sul loro utilizzo, cosa che al momento non avviene, avviene solamente per il 50% delle spese di esercizio mandato, tutto il resto il parlamentare se lo mette in tasca senza aver bisogno minimamente senza di rendicontare. Sì. Questa è la proposta, diciamo. Sì. Che mi sembra insomma una proposta assolutamente di buon però senso. A parte l'ottimismo non ho capito come andrà a finire, nel senso come andrà a finire, che è probabile, quasi certo, che finita la fase della discussione generale che c'è stata ieri, oggi si arrivi in aula e si alzi una manina da parte o della maggioranza o di qualche sicario della maggioranza negli altri partiti, che chieda un approfondimento del tema e che la rimanda in commissione. Approfondimento del tema che in tre mesi non si è trovato il tempo di fare, quando poi io mi ricordo che quando hanno dovuto approvare per esempio la legge Boccadutri, in cui dovevano prendersi i rimborsi elettorali che non sarebbero più si è trovato il tempo ci hanno messo due settimane tra Camera e Senato, quindi quando c'è la volontà politica o se viaggia questo bicameralismo, quindi... Senta, ma i PD sono così infastiditi che ieri sono uscite dichiarazioni di Alessia Morani, che è la vice capogruppo alla Camera, che andando sul sito vostro, tirendiconto.it, quello della rendicontazione dei deputati eletti, dei senatori eletti dei 5 Stelle, dice: ah sì, ma loro fanno in fretta a fare i rendiconti, tanto non ci fanno vedere le pezze di appoggio, è tutto falso. E con la tesi del PD è questa qui. Quindi ma dice... io sono contenta che aver dato adito al deputato Morani e agli altri deputati del PD di far rendere noto a tutti gli italiani che esiste uno strumento che usiamo solo noi per rendere trasparenti le nostre spese. Non avrebbero potuto farlo con le loro, perché noi non sappiamo sappiamo assolutamente niente di come spendono loro i soldi che gli italiani gli danno per il mandato parlamentare. C'è però un aspetto politico che è quello del voto, di come andrà a finire. C'è l'aspetto mediatico. Sicuramente si può dire che state, come dire, cavalcando il fatto che ci sia Beppe Grillo che dica venite tutti alla Camera. Ecco, questo come lo possiamo definire, Lombardi? Anche un aspetto mediatico di attenzione, di spettacolarizzazione di questo evento? Cioè volete, come dire, cavalcarlo molto anche dal punto di vista dell'onda mediatica? Ma noi vogliamo soprattutto portare all'evidenza dell'opinione pubblica il fatto che c'è una campagna referendaria per una riforma che stravolgerà completamente la forma di Stato e di governo di questo Paese, il cui tema principale è la riduzione dei costi della politica, per giustificare, no, questo stravolgimento. Noi abbiamo portato, calcolatrice alla mano, una proposta di legge che non stravolge nulla, ma che con una semplice approvazione porterebbe dei risparmi ben superiori a quelli presunti, risparmi certi, è proprio calcolatrice alla mano, risparmi certi maggiori rispetto a quelli della riforma costituzionale. Quindi se il problema è il costo della politica, basta tagliare i privilegi della casta. Cioè lei addirittura dice che con questi tagli si risparmia più di quanto si risparmierebbe con il sia referendum. Allora guardi, il referendum come risparmi sono stati stimati dalla Ragioneria di Stato, sì, dei risparmi presunti pari a 51 milioni 800 mila euro. Noi abbiamo fatto due calcoli, ma proprio da calcolatrice, basta prendere da 10.435 euro lordi mese, li porti a 5.000, ti avanzano ovviamente 5.435, per 12 mesi, per 945 tra deputati e senatori, fa 61 milioni e rotti. Questo solo tagliando l'indennità. Se poi venisse approvata la mia proposta di legge che elimina degli altri rimborsi, elimina l'indennità di carica, elimina le spese telefoniche e le spese di viaggio ulteriori rispetto a quelle che vengono riconosciute col fatto che noi abbiamo il testino parlamentare e quindi viaggiamo gratuitamente su treni, aerei, sì, e traghetti, se togliessimo anche questi risparmi sarebbero 87 milioni. Basterebbe tagliare i privilegi della casta. Dice Renzi, ha fatto questa controproposta, è data la luce annunziata, dicendo leghiamo tutto alla presenza. Per la verità un po' già c'è il legame alla presenza, cioè se uno non si presenta alla votazione c'è una decretazione. Ricordiamo che lui non è eletto, lui non è eletto, quindi... Sì, però è anche vero che non so, il lunedì e il venerdì casualmente non si vota mai, ci sono sedute ma non si vota, quindi se uno il lunedì assente lì non perde nulla, non c'è la multa per assenza da votazione. Beh, lo sa chi lo decide il calendario dei lavori d'aula e di commissione? Chi lo decide? La maggioranza. E chi è la maggioranza in questo momento? Il PD. Quindi insomma dovrebbe farsi un esame di coscienza prima di fare queste proposte improvvide riguardo il Parlamento. In ogni caso queste sono le solite butate televisive di Renzi, che arriva, spara una cosa così tanto per distogliere l'attenzione. Il partito di cui lui è segretario, penso ancora, no? In realtà in Commissione Affari Costituzionali ha fatto melina e ha deciso di non lavorare nel merito della proposta. Noi eravamo, io ero relatrice in Commissione, quindi abbiamo fatto una controproposta, abbiamo detto non dobbiamo per forza dimezzarci lo stipendio, vogliamo fare un livello intermedio, da 10.000 rossi lordi a 5.000 lordi, ci sono vari tagli che si possono fare, lavoriamoci insieme. La risposta è stata no, e quindi a questo punto le proposte televisive lasciano molto il tempo che trova. Allora, qua Roberta Lombardi, nel concludere non le sarà sfuggita che oggi c'è un'intervista di due pagine del direttore della Repubblica Mario Calabresi a Virginia Raggi, sindaco di Roma. A parte parlare un po' di non si capisce bene, adombra il sospetto che c'è una sorta, Oscar, di complotto dei frigoriferi, cioè frigoriferi graffitati. Nota il sindaco Virginia Raggi che ci sono tanti frigoriferi un po' più del solito frigoriferi abbandonati per la città. Ma c'è una domanda riferita a lei, perché Calabresi dice: la Lombardi le fa la guerra, la cosa la preoccupa, e Virginia Raggi dice diciamo che Roma ha talmente tanti aspetti da curare che i giornali ingigantiscono questioni e situazioni piccole. Ma lei fa la guerra a Virginia Raggi davvero? Mi dica che andate d'amore d'accordo, perché non abbiamo né il tempo né la voglia di farci la guerra, perché c'è stato di mettere in sesto una città e un paese, quindi ognuna deve pensare a lavorare e a dare il meglio proprio per questo paese e per questa città. Va bene, risposta diplomatica. Anche una domanda secca finale: crede a quello che si legge sempre più sui giornali? Cioè, nelle ultime settimane è cominciata la grande rivincita, alla che fine vince il sì, il referendum del 4 dicembre? Assolutamente no, mi sembrano quelle false notizie sui sondaggi, come quando c'erano le europee che davano il Movimento 5 Stelle in testa perché dovevano creare lo spauracchio del vincono quei matti dei grillini. No, io parlo con le persone, le incontro, le vedo, nessuno vuole questa riforma, perché capiscono la pericolosità di una riforma che insieme alla legge elettorale va in una direzione che purtroppo abbiamo già provato più o meno agli inizi del Novecento. Senti, ma Grillo oggi sarà dentro o fuori dal Parlamento? Non l'ho capito questo. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Un po' sulla per massimizzare l'effetto. Cioè, esatto. Capite che è una cosa anche molto... Ma forse anche legittimamente la volete, come dire, cavalcare anche dal punto di vista mediatico. Cioè starà un po' dentro e un po' ad arringare la folla, diciamo. Sa così. Che c'è? Che quando noi abbiamo un'occupazione militare della televisione di Stato, dove tutto quello che passa è praticamente l'energia del renzismo, uno deve organizzarsi con le cartucce mediatiche e con i numeri a colori, come si suol dire. Come può, va bene, staremo a vedere. Io ho già comprato i popcorn per la seduta di oggi. Roberta, no, scherzo, ovviamente è una cosa seria il Parlamento, non è che sto dicendo che sia un cinema. Io mi auguro che il Parlamento una volta o l'altra adotti qualcuna di queste proposte invece che limitarsi a dire no e a fare il cinema per dire no. E il problema è prendere qualcuna di queste proposte e tradurla in un sì con tagli veri. Comunque, grazie Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle, alla Camera. Vedremo oggi come andrà questa seduta. Ci chiamano, tanto continuiamo su questo tema. Ci chiama Roberto da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. A lei, grazie. Volevo semplicemente far sottolineare, ecco, il paradosso del PD. Da un lato porta avanti la sua battaglia del referendum, sostenendo l'abolizione o comunque la riduzione del costo della politica. Poi quando ha uno strumento efficace nella Commissione Affari Costituzionali che potrebbe essere approvato come una legge seria che attualmente, diciamo, colpirebbe tutti i senatori e deputati, non la porta avanti. Ecco, volevo far emergere questa contraddizione, secondo me. Questa contraddizione. Ma vero, Roberto, perché... il problema è che da una parte la politica impedisce una specie di maledizione di riconoscere in altre parti, se non la propria, la virtù, la bontà delle proposte, e quindi ognuno si presenta come se fosse il depositario, solo lui sa cosa bisogna fare, o la sua proposta passa o quella degli altri fa schifo, è strumentale, così via, da una parte. Dall'altra io mi chiedo, non so darmi la risposta, se proprio non c'è nessuna volontà di tagliarle queste cose, perché è come la lotta sui vitalizi agli ex consiglieri regionali, con le associazioni che sono sempre in campo a difendere degli ex e così via. Cioè la politica da una parte si divide per disconoscere i meriti altrui, ma dall'altra ai soldi è attaccata come le cozze sullo scoglio. Questo sì. Riprendiamo da Federico da Novara e avremo anche un collega del Messaggero per raccontare sempre questo tema, i costi della politica. State con noi. Siamo qui alle 8:41 minuti, c'è anche, caro Oscar, Brunetta invece tra le varie proposte, perché adesso è un fiorire di proposte, che ha detto bisognerebbe dare i soldi che uno guadagnava, lo stipendio da parlamentare in base a quello che uno guadagnava prima di entrare in Parlamento. No? Senti. Occorre prevedere una norma che sia capace di adeguarsi alle diverse situazioni introducendo un parametro che si lega al proprio al reddito percepito fino al momento dell'assunzione di una carica pubblica. E la domanda sorge spontanea, e per chi non aveva un reddito, e per chi era disoccupato, e il reddito di cittadinanza. Io cioè direi quello che è la proposta. Il reddito di cittadinanza per chi non aveva reddito era disoccupato. Che è la proposta poi del Movimento 5 Stelle. Però fioriscono le proposte però, più disparate. Intanto questa idea, che era anche un'idea mia anni fa, secondo me ha un senso, sì. Perché eviterebbe l'accesso alle liste parlamentari di chi lo fa per svoltare la vita. Sì, non so se chi è chiaro. Vince la lotteria. Chi non ha mai lavorato un giorno nella vita. Allora, su questo, attenzione, che anche il nostro premier c'ha un difettuccio. C'è un difettuccio perché sai che tanto in Parlamento non c'è. Da cococò dell'azienda di famiglia, pochi mesi prima, dell'elezione alla provincia, divenne dirigente con poche settimane di contributi pagati, dopodiché se l'è accollato l'ente pubblico la contribuzione figurativa sua. Quindi questo per ricordare i fatti, non sto inventando, sono i fatti relativi. Quindi la cosa di Brunetta in realtà era una stilettata esattamente al Presidente del Consiglio. Esatto. Federico ci chiama da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per la trasmissione. Ma volevo semplicemente dire che comunque la proposta che è stata portata in aula penso sia di assoluto buon senso. Dimostra che in realtà con o senza riforma costituzionale, se c'è la volontà, le cose si possono portare in maniera efficace. Quindi il fatto che sia rimasta lì 2 anni dimostra che comunque non c'era la volontà di farlo, di affrontare la cosa. Quindi con o senza Senato penso che cambi poco se non c'è la volontà. E quindi credo che poi al di là di tutto si mettono sempre in primo piano gli interessi, diciamo, di bandiera piuttosto che fare qualcosa in effetti di efficace. È chiaro che se noi andiamo dai cittadini a dire siete contenti dell'ipotesi che oggi possono essere dimezzati gli stipendi dei parlamentari, troveremmo, come dire, un plebiscito, io penso, no? Però è chiaro anche che ognuno si vuole intitolare la titolarità di questa proposta, quindi se viene dal 5 Stelle è ovvio che dalle altre forze politiche ci sia una forza contraria per cercare di osteggiare questo tentativo. Poi devo dire, si è anche diffusa ormai nel tempo, ma anche tra molti giornalisti, vedi per esempio oggi Luca Tellese sulla Verità, no? Tra giornalisti insospettabili di essere filocasta, è una specie di contromovimento. Sì, diciamo, perché dicono no, basta con questa storia, bisognerà anche, i parlamentari vanno pagati bene. No, caro Luca, ma scusami, ma come mai bisogna accettare l'idea che sono pagati così tanto più che negli altri paesi avanzati? Questo è la domanda. Facciamo una media europea, capisci? Non di allora, più né di meno. E come la questione dei costi Camera, Senato, Quirinale rispetto a quanto costano negli altri paesi? Questa faccenda, no, la politica ha bisogno di problemi, sono problemi così complicati che tanto vale pagare tantissimo che li sa risolvere. Prima un parlamentare non risolve problemi, perché un parlamentare rappresenta. E secondo, ripeto, non vedo perché pagarle così tanto di più. E la risposta formale, siamo collegati alla retribuzione dei magistrati, è una classica riforma formale figlia di un sistema malato che ha trovato i sistemi ciascuno appoggiato all'altro per autogiustificarsi, punto. Tra l'altro, per fugare ogni dubbio, si potrebbe rileggere, leggete da tutti l'intervista che Niccolò Ghedini oggi rilascia al Corriere della Sera per raccontare, ecco, entriamo in presenze dello 0,8%. No, ma soprattutto della produttività, cioè dice Ghedini, il parlamentare ormai è lì, annoiato, vota, pigia il bottone quando il capogruppo gli dice sì o no, vota per no, poi torna a leggere il giornale. Lui forse fa anche un ritratto molto impietoso, cioè dire no, ma credo vabbè, ma il parlamentare che poi vuole documentarsi sulle leggi credo che poi avrà tempo per farlo e passione, se sì, ha anche passione, se per sul farlo. Fatto che si vota su quello che decide dall'altro più o meno è vero, questo, sì. Sono in pochi ad avere, insomma, dice non fanno nulla, sono lì per pigiare bottoni, è fiction, la definisce così Ghedini, fiction. Intanto salutiamo un collega, Claudio Marincola del Messaggero. Buongiorno Claudio, eccoci qua. Buongiorno Marincola. Eh sì, Marincola, perdona, certo, Marincola. Che hai scritto ieri che non solo i parlamentari, ma anche i consiglieri regionali sono ben organizzati, no? Per non mollare l'osso, diciamo così. Ma diciamo soprattutto i consiglieri regionali, anche perché di numero, diciamo numericamente, sovrastano gli ex parlamentari, eccetera. Ma io parlavo soprattutto di questo, cioè di quello che avviene dopo, cioè del fatto che resistono delle associazioni, ogni regione ne ha una, è prevista per statuto, di ex consiglieri regionali. Di ex consiglieri regionali che poi continuano comunque a fare attività di lobbying, cioè a dire. E tutto ruota intorno alla questione del vitalizio, perché è vero che è diventato e che è sempre stato il simbolo della casta per eccellenza. Sembra che sia uscito tutto, sembra che sia stato detto tutto, in realtà non è vero, cioè il vitalizio resiste, sta lì e vive e lotta insieme a noi, non c'è verso di farglielo mollare. E voi prima facevate i paragoni e dicevate del qualche modo di parametrare, no? È uscita anche questa proposta, lo stipendio dei nostri politici se non altro all'Europa, se vogliamo quanto avviene in Europa, eccetera. Potrebbe essere un parametro eco, eccetera. Ebbene, a parte il fatto che comunque gli stipendi sono mediamente più bassi in paesi dove si guadagna, dove un professionista guadagna mediamente di più di quanto guadagna da noi. Cito ad esempio la Francia, la Germania, il Regno Unito, eccetera. Però ecco, scopriamo che anche lì il vitalizio non è un istituto, diciamo così, redditizio per i parlamentari, ma assolutamente molto meno. Cioè, che ne so, prima ho citato il Regno Unito, benissimo, il Regno Unito il vitalizio ammonta a 530 euro lordi contro i nostri 2800 e rotti, vado a memoria, insomma, per un mandato, ecco, mentre invece lì sono stabilmente 530 euro. Non è che sommano per anzianità di mandato come da noi. No, no, no, sono 500 perché è un vitalizio, cioè, poi, dire, non è il risultato di una contribuzione. Da noi per tre mandati sfioriamo i 7, e veniamo al punto. Euro, cioè, ma perché dare questa indennità assolutamente eccedente di multipli e multipli i contributi versati, tanto che se riparametrassimo i criteri contributivi totali dei vitalizi di ex consiglieri regionali risparmieremo 1,4 miliardi di euro, caro Alessandro Milano, in 10 anni? Ecco, 1,4 miliardi, non mi sembra poco? Ma io voglio dire, ma non è che questi politici nostri stiano scherzando col fuoco, ma l'hanno capito che no, se non si mettono le mani in tasca, cioè è una questione, diciamo, cioè devono darci l'esempio loro. Questo, cioè, adesso al di là di qualsiasi, diciamo, formula demagogica, eccetera, ma è possibile che dopo diciamo, libri che sono diventati best seller sulla casta, cioè si continua, il fatto che si continui a insistere in questo modo, ci sia addirittura, questo è quello che io raccontavo l'altro giorno, ci sia addirittura, ci siano convegni, riunioni, programmi, piani per scardinare in qualche modo la lotta al vitalizio, cioè questo io voglio dire, cioè, perché ci sono, come hai raccontato ieri, queste associazioni che sono attive, proprio fanno queste incontri, convegni, non sono attive, ma si chiedono cosa dobbiamo fare, interveniamo sul direttore della RAI, facciamoci ricevere dal presidente in Viale Mazzini, pubblichiamo sul nostro bollettino una difesa del vitalizio, cioè voglio dire, ma cioè, dove vivono? Cioè, hanno presente che questo non è soltanto una questione, diciamo, la questione economica va ovviamente in secondo piano, perché sì, non questo è demagogico chi sostiene questo, cioè è tutto il resto, cioè è tutto il resto che conta. Ora io non, ho sentito prima, parlavate della proposta Brunetta, eccetera. Sì. Cioè, adesso mettiamo da parte, diciamo, le provocazioni più o meno simpatiche. Tra l'altro argomentate benissimo in aula, devo dire, dal presidente dei deputati di Forza Italia. Però ecco, resta il fatto comunque che devono uniformarsi, cioè, non c'è niente da fare. Cioè, se un parlamentare in Francia prende un'indennità di 5.600 euro... Vedi Claudio, io ti ricordo questo. Quando ai tempi del governo Monti fu istituita una commissione presieduta da Giovannini, quindi presidente dell'Istat, che doveva raccogliere i dati dalle amministrazioni, dagli organi costituzionali, quindi dal Parlamento, innanzitutto Camera e Senato, per fare un criterio comparato, davvero comparato, come siete tutti d'accordo, perché tutti contestano dicendo no, la comparazione degli stipendi è giusta perché l'indennità è dentro e fuori e così via. Quella commissione dovette rassegnarsi al fatto che non poteva fare questa comparazione perché Parlamento, cioè Camera e Senato, rifiutarono sempre una scomposizione che consentisse una comparazione accettabile ai loro occhi, che è un comportamento da ladri, io lo dico urlando, ladri istituzionali, eppure la cosa non venne sanzionata. Ma infatti, Oscar, se posso, scusami, la prima anomalia è che i parlamentari debbano decidersi lo stipendio da soli. Cioè, voglio dire, ma insomma, ma ti pare? Ma è come se noi ci potessimo decidere, tu immagini a noi che dovessimo votare, diciamo, qual è la retribuzione del giornalista. La famosa autodichia. Mi sembra che questa sia la prima. Dopodiché resta il fatto comunque che, e questo è un fatto secondo me grave per la maggioranza e per chi si è fatto scippare questo argomento in questo modo, che in aula si è arrivato un disegno di legge dei 5 Stelle su un argomento di questo genere, qui parliamo di una questione eminentemente politica, a poco più di un mese dal referendum costituzionale. Mi sembra diciamo un gesto di miopia assoluta, anche perché insomma, cioè, si fanno dare lezioni in una materia, diciamo, che dove gli italiani hanno un nervo scoperto. Sì, su questo effettivamente non ha mai amministrato, è di oggi l'episodio della senatrice 5 Stelle che arriva in Campidoglio con la macchina e parcheggia davanti alla macchina per far scendere, taverna. Il pargolo. Per dire che poi alla fine, insomma, su questi comportamenti qui sostanziali, poi alla fine si cade più o meno tutti. Sentiamo, diciamo, se Federico da Roma, per concludere, ha qualcosa, Federico, da dirci. Buongiorno. Sì, sicuramente buongiorno, qualcosa a tutti da dirci. Buongiorno. Dica. No, io volevo sottolineare il fatto che secondo me la proposta dei 5 Stelle è abbastanza demagogica, come capita spesso, nel senso che io sono convinto che un politico debba essere pagato bene, dopodiché, cioè, bisogna puntare sulle competenze, non su proposte così di riduzione e basta. 5.000, cioè 2.008 netti più la diaria più il 3.690 di mandato non è poco. Certo, ma infatti anche i numeri che ha tirato fuori la Lombardi, che arriva a 80 milioni, quelli che sono alla fine, 61. Non è che sono così lontani da quelli che lei stesso dice che produrrebbe la riforma costituzionale. Cioè, quindi Federico, sommiamoli invece di escluderli, perché capisce? Lei fa il gioco della politica, basta elidere le proposte altrui, poi vengono elise anche le proprie, magari vince no, e non facciamo niente, continuiamo come prima. Però la ringraziamo, Federico, ci dobbiamo fermare, che se no sforiamo. Ringraziamo anche Claudio Marincola del Messaggero e, come dire, oggi vedremo come andrà questa seduta, si preannuncia sicuramente un po' turbolenta. Dentro e fuori, dentro, cioè, fatto fuori. Che dentro del resto, e fuori, questo è un paese che indaga gli ufficiali della Marina come Katia Pellegrino. Questo è incredibile, pazzesco, sì, ragazzi. Salviamo i migranti, ma viene indagata. Viene indagata per soccorso con altri ufficiali. Della soccorso, Marina. Quindi sarà strage, omicidio, ma roba da pazzi. Vabbè, solidarietà a Katia. A domani.